Poi domenica sono successe due cose, in sequenza piuttosto ravvicinata. Due cose per cui se uno crede nei sogni, probabilmente avrebbe mollato lei e gli sci e se ne sarebbe tornato a casa subito. Ma io continuo a non crederci e quindi tengo duro. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Il fatto è che per sentirsi persi basta veramente poco. Basta un po' di nebbia che cala sulla pista di sci, una mano da stringere che sfugge, uno sguardo d'intesa che non c'è più. Ci sono dei momenti in cui ci sentiamo improvvisamente persi. Si gira una curva, si perde di vista la strada di prima e tutte le certezze vengono giù. È come accade con lo scherzo della sedia. Quello in cui qualcuno ti sfila la sedia da sotto il sedere un secondo prima che tu ti ci stia sedendo. Perché tu avevi calibrato il movimento, avevi calibrato il peso per appoggiarti lì, su quel sedile, a quell'altezza. E adesso che invece sei lì col culo per terra, ti sembra che le leggi del mondo ti si rivoltino contro. Ti sembra che nulla sia più come prima solo perché il mondo che ti aspettavi di trovare lì, sotto il sedere, non c'è più. E in quella frazione di secondo, prima che tu capisca che qualcuno ti ha fatto semplicemente uno scherzo, le poche sicurezze che avevi sul mondo svaniscono. Un po' come quando ti dicono che ti hanno licenziato, o che ti hanno bocciato a un esame, che tua mamma non è tua mamma, o che tua mamma è tua mamma. Quando viene a sapere che il tuo aereo è partito senza di te, o che la tua fidanzata è la fidanzata di un altro. Quando ti rendi conto che il lavoro che fai non ti piace, non ti è mai piaciuto e non ti piacerà mai. Poi però, alle volte, allo stesso modo, basta veramente poco. Uno alza gli occhi e la nebbia è svanita. Incontra una donna e se ne innamora. Oppure prende un treno e se ne torna a casa. Perché perdersi non è una questione di punti cardinali, non c'entra nulla con il senso dell'orientamento. Riguarda una cosa più intima, che mostra una parte di noi che noi non conoscevamo. Alla fine la paura che sentiamo salire non arriva tanto dal trovarsi in un territorio sconosciuto, ma dal conoscere di noi una cosa che non sembra noi. E in quella zona lì, tutti, prima o poi, ci siamo sentiti smarriti. 800 24 00 24 349 238 66 66. Capitato a tutti, è capitato a tutti di sentirsi un pochettino persi, sia da un punto di vista geografico, magari uno si trovava in una città anche piccola, non deve essere per forza Città del Messico, anche se ho la sensazione che perdersi a Città del Messico sia un'esperienza, tipo una città tipo quella o tipo il Cairo, no? Ecco, forse perdersi è più facile ed è anche una sensazione quasi quasi esoterica probabilmente. Ma anche uno che si è semplicemente perso in una città come Brescia, ci si può perdere in una città come Brescia? Oppure uno si è perso in montagna, come più o meno è capitato a me questo fine settimana, visto che sono arrivati un sacco di messaggi nel weekend che mi chiedevano: allora come va il fine settimana con gli sci? Adesso ve lo racconto come è andato il fine settimana con gli sci. Ha a che fare chiaramente con lo smarrirsi, con il perdersi. O nel deserto, c'è qualcuno che è stato nel deserto e si è perso? Sai, quelle robe tipo una tempesta di sabbia, oppure perché perdi la traccia. C'è una traccia nel deserto? Non lo so, se qualcuno c'è stato, 349-238-6666. O altrimenti no, altrimenti uno si è sentito smarrito per mille motivi, perché è finita una storia, ad esempio, perché quei punti fermi che aveva non c'erano più, molto banalmente, un po' come con lo scherzo della sedia. Stamattina venendo in radio ho visto la faccia di uno che era veramente smarrito. C'era un semaforo che lampeggiava, era un semaforo arancione. A Milano non c'è molto traffico in questi giorni, per il semplice fatto che domani è Sant'Ambrogio e poi è l'Immacolata, quindi i milanesi gli stanno facendo il ponte, infatti ci si poteva muovere in macchina abbastanza facilmente, e probabilmente proprio per questo motivo i vigili urbani scelgono i giorni come questo per fare la scuola ai vigili urbani. Quindi a un semaforo vicino a casa mia c'erano un gruppetto, saranno stati una ventina di vigili urbani, alcuni già vestiti da vigili e altri invece a metà, sapete, no, che magari c'hanno i pantaloni, la pettorina e il cappello in testa perché oltretutto nevicava. E quindi facevano la scuola di alza il braccio, fai passare, poi ti giri, fai passare gli altri, quelli che devono svoltare a sinistra e quelli che devono svoltare a destra. E c'era al centro questo ragazzo che avrà avuto, non so, 25-30 anni, che aveva proprio la faccia smarrita di quelli che stanno imparando qualcosa e non sanno da che parte girarsi. Al punto che io ho accostato, semplicemente perché lui mi ha detto di fermarmi, e il suo maestro vigile ha cominciato a dire: con la destra, non con la sinistra, alza la destra. Quando lui ha alzato la destra non aveva messo i guanti e gli ha detto: dove sono i guanti? E lui ha allargato le braccia come dire: maestro, sa. Solo che allargando le braccia ha perso la posizione dell'avanti tu, davanti. Un disastro. Lui aveva veramente la faccia di quello che non sapeva dove mettere le mani, ma soprattutto che era completamente perso. 80024 0024, oppure 349 238 6666. Lidia mi scrive su Facebook: ti senti smarrito quando diventi mamma davvero giovane e quando devi essere tu il genitore di quell'essere così piccolo e fragile, e invece senti ancora un bisogno di una persona che ti protegga. Quello sì che è sentirsi smarriti. Carlo dice: ti senti smarrito quando i pali in cemento armato si sono sgretolati. Credo che abbia a che fare con il terremoto. Paolo invece si è smarrito nella neve. Mi sono trovato in una bufera di neve sulle piste da sci in un mercoledì deserto, con la visibilità nulla, nessun segno di cartelli di segnalazione piste. Mi sono tolto gli sci e per fortuna in lontananza ho intravisto una figura che si avvicinava e mi diceva: ciao, sono di Venezia e mi sono perso. Però ha tenuto a farsi localizzare. Guarda, sono di Venezia e mi sono perso, non sono tipo del Burkina Faso, mi sono perso. Nunzia: quando una dolce promessa smette di essere tale. 80024 0024, 349 238 6666. Qualsiasi sia stata l'occasione in cui vi siete sentiti smarriti, che sia stata di recente o qualche anno fa, se magari vi sentite adesso smarriti per il motivo più semplice o il motivo più complicato, avete un numero, è il numero verde di Radio 24, memorizzatevelo, mettetevelo nel cellulare. Radio 24, numero verde, Radio 24 SMS. 80024 0024, 349 238 6666. Io questo fine settimana mi sono sentito smarrito e più o meno è andata così. Il viaggio di andata è durato quasi 2 ore e io non me ne sono neanche accorto. Abbiamo parlato di qualsiasi cosa e ascoltato qualsiasi musica. Quando siamo arrivati l'aria era dolce, era buona. Non lo so, probabilmente in auto stavamo ancora respirando l'aria della città. E una volta aperte le portiere l'impatto è stato gelido ed eccitante. La casa della montagna di Natalie è piccola e calda, in un paesino pieno di case di pietra e di neve. Abbiamo camminato sul marciapiede mano nella mano. Da lontano i paesi di montagna si somigliano un po' tutti. Lo stesso odore di legna bruciata, stessi colori scuri, freddi. Solo che se ci cammini in mezzo, ti accorgi che in realtà non è per niente così. E questo infatti era diverso dal paese in cui si trova casa dei miei, ad esempio. Appena arrivati venerdì sera abbiamo lasciato giù i bagagli e siamo usciti. Natalie mi ha guidato tra le vie del paese. Mi ha mostrato i negozi che conosce sin da quando è piccola. Mi ha fatto vedere dove giocava con i suoi amici. Addirittura mi ha mostrato un albero dietro cui ha dato il suo primo bacio, un'estate di diversi anni fa. È bello lasciarsi guidare dalla persona a cui tieni. Farti mostrare le sue cose, le cose che sono state il suo passato. E poco dopo, mangiando un panino con la salsiccia intorno ad un falò, mi sono accorto che, anche se la stavo vivendo, quella cosa lì già mi mancava. Cioè che anch'io avrei voluto mostrarle le mie cose, le cose che mi hanno disegnato così come sono oggi. Un po' come si fa quando ci si sta scoprendo e ci si lascia scoprire. Come si fa quando si sta per mettersi insieme, insomma. Poi lei ha fatto un sorriso e quei pensieri sono volati via. O forse si sono solo nascosti chissà dove. Siamo tornati a casa sua, camminavamo dai lati opposti della strada, perché lei stava parlando al telefono con il suo fidanzato. E io ovviamente facevo finta che tutto ciò alla fine non fosse poi così assurdo, no? Che l'avevo fatto anche io anni prima. Eppure mi sentivo piccolo e brutto, come un chihuahua, quei cani messicani, che proprio perché sono minuscoli e tu li puoi schiacciare senza accorgertene, che allora loro sono antipatici e spesso sono aggressivi. Siamo arrivati a casa, lei ha preparato una tisana calda, che in montagna viene sempre voglia di una bella tisana calda. Poi siamo andati a letto parlando del giorno dopo, come se il fidanzato fossi io e come se fossi uno sciatore provetto. E invece nei 2 giorni dopo ho realizzato che non era vera nessuna delle due. Abbiamo sciato tutto il giorno, lei come una ballerina sugli sci e io come un bisonte a spazzaneve. Poi però, come sempre succede, mi ci sono appassionato e quindi ho iniziato a fare piccoli miglioramenti che mi hanno portato sabato pomeriggio addirittura a scendere a sci quasi paralleli e domenica a riuscire a fare praticamente tutte le piste. Non senza difficoltà, però andavo dappertutto. E poi domenica sono successe due cose, in una sequenza piuttosto ravvicinata. Due cose per cui, se uno crede nei segni, probabilmente avrebbe mollato lei e gli sci e se ne sarebbe tornato a casa subito. Ma io continuo a non credere nei segni e quindi tengo duro. Ve li racconto in diretta, proprio così, come sono andati. Ci fermiamo in un rifugio a mangiare qualcosa. Sono le 3 del pomeriggio e il bancone e i tavoli sono pieni di gente. Lei si siede ad un tavolo che si libera come per miracolo. Io vado a fare una coda di quasi 20 minuti, poi prendo una polenta con formaggio e una zuppa valdostana e torno verso il tavolo. Quando sono quasi da lei, mi accorgo che lei sta parlando con due persone. Sono un ragazzo e una ragazza. Si sono seduti al tavolo con lei mentre lei è visibilmente in imbarazzo e quando mi vede arrivare fa un'espressione a metà tra la supplica e le scuse. E poi torna a parlare con loro. Io capisco immediatamente, invece che fermarmi, tiro dritto verso l'uscita. Mentre passo, vicino al tavolo, sento la ragazza che dice: «Ma scusa, fammi capire, quindi Italo è rimasto a Milano e tu sei qui con i tuoi?» Io esco dalla baita, mi è passata la fame, butto la polenta e la zuppa in un cestino. Mi infilo gli sci e vado verso lo ski lift. Il sole non c'è più e tutto sembra più grigio che bianco. Arrivo all'impianto, mi aggancio allo ski lift e salgo. La salita dura 5, forse 10 minuti, in cui riesco a non pensare a niente. Arrivo in cima, mi preparo a sfilare il piattello da sotto il sedere, alzo gli occhi e non vedo più nulla. Il cavo dello ski lift di fronte a me si infila in un muro bianco, lattiginoso. Capisco di essere arrivato in cima perché il terreno si fa pianeggiante. Mi sgancio dallo ski lift, mi guardo intorno per cercare la pista, ma niente. Non so che cosa sia, se è nebbia, neve o nuvole, ma è tutto bianco. Io sono da solo e ho freddo. Non lo so, ma credo siano nuvole basse quelle che avvolgono la montagna. Non credo sia nebbia, perché quando c'è la nebbia non c'è il vento. Il vento invece ora c'è, eppure forte. Io so che la pista è a sinistra e quindi comincio a scendere. Vedo malapena la punta dei miei sci, quindi vado pianissimo. Mi sento piccolo, debole. Mi dico che alla fine della pista da qualche parte laggiù c'è la baita e che devo continuare a scendere. Il problema è che non so dove sto andando. Metti che sbaglio pista e vado oltre la baita senza accorgermene. Forse dovrei chiamare Nathalie, dirle che mi sono perso. Solo che lei sta parlando con la coppia di amici con cui lei e Italo di solito passano qui i loro fine settimana, quindi non mi sembra proprio il caso. E poi, in questo momento, piuttosto che chiamarla, mi trasformerei in uno Yeti. Ce la posso fare io, da solo. In fondo è solo un po' di nebbia. Improvvisamente però il terreno sotto gli sci cambia, la neve non è più compatta, è fresca, è alta. Le punte degli sci ci si infilano fino a fermarmi. Provo a tornare indietro sulla pista ma faccio troppa fatica, il fiato è sempre più corto. Provo a scendere, che forse più giù mi ricollego alla pista, ma proprio non riesco, le gambe mi fanno male e non posso proseguire. Ok, la chiamo. Mi sfilo il guanto, apro la tasca, prendo il cellulare ma qui non c'è segnale, merda. Distinto come fosse un conato di vomito quasi, mi esce un grido. Chiedo aiuto e urlo, ma più urlo e più la mia voce mi fa paura. Si perde nel nulla di questo muro bianco e gelido che sembra che mi segua ovunque io vada. Sento la faccia che mi si stringe, la gola si chiude. Ma non voglio piangere, non sono un bambino, adesso mi tolgo gli sci e vado a piedi. Solo che faccio un passo e mi ritrovo infilato nella neve che mi arriva fino alla vita. Mi giro e anche gli sci sono spariti, inghiottiti dal bianco. Il fatto è che non ci pensi, o meglio ci pensi però pensi che non capiterà mai a te, che non ti troverai mai da solo in una bufera di neve con la temperatura del tuo corpo che scende lentamente fino a congelarti. Stringo gli occhi perché non voglio piangere, poi li riapro e vedo i miei sci. Ora li vedo, sono lì, nitidi, a 2 metri da me. Sollevo la testa e pure le nubi si sono alzate. Neanche 50 metri sotto di me c'è la baita. È bastato che chiudessi gli occhi, che si alzassero le nuvole e il panorama è cambiato. La mia vita sembra cambiata. O forse è solo il modo di vederla. Non lo so, forse si trattava solo di spostarsi da qui, dal posto in cui mi ero abbandonato, per vedere che le cose non erano definitive come sembravano. Guardo giù e vedo che Natalia armeggia con qualcosa in mano. Poi sento vibrare la mia tasca, tiro fuori il cellulare e lei mi sta chiamando. Mi aggancio agli sci, esco dalla neve fresca e torno da lei. Tutto senza risponderle. Sei. Sentirsi smarrito dopo aver appreso di essere stato trasferito in provincia di Nuoro e non essere sardo, Francesco da Bari. Mi sono perso alla riemersione dopo una notturna. Mi sono sentito sfinito e smarrito, praticamente morto. E se rischiava di andare come in quel film in cui i due tornano dall'immersione e non c'è più la barca, devo dire che la sensazione deve essere stata proprio di smarrimento. Com'è che si chiamava quel film? Deep Water si chiamava. E forse era pure una storia vera. Mi sono perso quando un'amicizia importante è iniziata a diventare di più, senza che potesse esserlo però, Michela da Vicenza. Persi, io e due amiche sulle Prealpi... Oh, finalmente qualcuno che si è perso, era me. Io e due amiche sulle Prealpi friulane, nel solstizio d'estate, bussola, sole e un po' di fortuna per rientrare. Giornata mitica. Max da Udine. Probabilmente erano della vostra squadra, ragazzi, saranno stati degli scout, se vanno in giro con la bussola, no? Ma gli scout poi non... Agli scout non basta, lascia stare Bonini, vanno in giro senza bussola, però agli scout non basta guardare il muschio che cresce sugli alberi. Sì, queste sono le leggende, no? Certo, guardi il muschio e lì indica il nord, giusto? Perfetto, per cui il resto è tutto sud. Io mi sono perso a San Antonio de los Cobres, in Argentina, 4000 metri nelle grandi saline, a Alessandra da Padova. Ieri sera mi sono perso nel parcheggio del centro commerciale, 20 minuti per trovare la macchina, Simone da Bergamo, ma ce n'è un altro, eccola qua, mi sono sentita davvero smarrita in un parcheggio a livelli, dove su tutte le porte c'era scritto uscita, però nessuna era quella giusta. Per me all'imbrunire non ho capito se questa è una firma o che cosa. 800240024 349 238 6666. Appunto, quelli sono i non luoghi, come dice il nostro sociologo Bonini, che ti sembrano fatti apposta per farti perdere. Però Romina mi scrive: ci si sente smarriti quando non abbiamo più quel qualcosa a cui siamo legati, quando perdiamo qualcosa di importante, per esempio il nostro equilibrio. Ad un tratto della mia vita ho perso tutto quello in cui avevo creduto e conquistato, e automaticamente mi sono sentita smarrita, non sapevo più che posto avevo nel mondo. Prima ho chiesto se c'era qualcuno che si era per caso perso nel deserto, perché alla fine poi le robe sono quelle, no? Nel deserto, quello che si è perso invece nel mare da un'immersione, e pare che lo abbiamo trovato. Dopo la borsa, io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto siamo in uno di quei posti che si avvicinano moltissimo all'idea che possiamo avere di paradiso. Cioè, da lontano potrebbe sembrare una conchiglia, e invece se la guardi bene è una baia. Una baia da qualche parte del mondo che ha montagne e boschi tutto intorno, e poi ha questa striscia di sabbia stretta e a forma di conchiglia, appunto, bianchissima, che ha un colore che va dal bianco lentamente al celeste fino al blu più profondo in mezzo al mare. Il cielo azzurro, c'è qualche nuvola che però sta lì come a segnalarti che io sono una nuvola, però guarda che il cielo in realtà è azzurro. Non so dove siamo, cerchiamo di capirlo. Marco Rizzato, 21 anni. Ora sono in una di quelle stanze con letto e PC che in tanti hanno. Dove vorrei essere davvero è Wineglass Bay, Tasmania. E tra 10 giorni ci sarò. Io sono qui. quindi questo non c'è stato semplicemente, questo era il posto dove lui voleva stare. Andate a vederla però la foto, perché sono sempre quelle foto che per 5 secondi quando le guardi, se fuori c'è la neve come sta accadendo oggi ed è tutto grigio qui a Milano, un pochettino ti risolleva. Radio24.it, la pagina di Io Sono Qui, per vedere la foto del giorno. Allora, il titolo del film in cui i due emergevano dall'acqua ed erano persi perché la barca li aveva lasciati lì è Open Water e non Deep Water. E poi Alberto scrive: mi sono smarrito all'obitorio dell'ospedale San Martino di Genova. La storia è lunga, ma ad ogni angolo spuntava un nuovo cadavere. Vabbè, sei all'obitorio. Uomini, donne, giovani, tutti stesi con le mani sul petto. Mi sentivo in un film dell'orrore, mio malgrado. Perso in un bosco durante la ricerca dei funghi. Ma sai che la ricerca dei funghi è una delle robe più pericolose? Cioè, probabilmente il deltaplano è meno pericoloso della ricerca dei funghi. Panico per mezz'ora, ma poi... mai più da solo, Daniele. Smarrimento, vabbè, qui sono diverse attività. Uno che va per funghi, uno che fa la pennichella. Smarrimento, temporale al brusco risveglio dopo la pennichella pomeridiana. Non sapere se è mattina, pomeriggio o sera. Alfredo da Genova. Ma prima ho chiesto se c'era qualcuno che si è perso nel deserto, magari per una tempesta di sabbia o perché è uscito da una traccia. Se di tracce nel deserto si può parlare. E qualcuno ha scritto. È Roberto da Padova. Pronto, Roberto? Pronto? No, allora, sono Davide da Torino io. Ah, sei Davide? Benissimo, okay, ciao, perfetto. Scusami, ciao. Davide, ho letto male il nome. Perdonami, ho letto male il nome. Beh, cambia poco nel senso che non sei Roberto, però quantomeno ti sei perso nel deserto. Sempre deserto, sì. E com'è andata? Mauritania, in moto, viaggio avventura tra due amici che pianificano tutto. Ma avventure nel mondo, Roberto, no, Davide? No, avventura, ah, okay. Avventura assolutamente personale, self... organization, quindi sì. organizzata in proprio, uno pianifica tutto, immagina di fare 5.000 chilometri in mezzo a niente, tra sabbia. Ma infatti parliamo proprio di dune, del deserto, esatto. Che uno immagina quando immagina il deserto. Esatto, quindi soltanto sabbia, uno può pianificare tutto, ma non può pianificare il fatto di perdersi. E quando con la nostra mentalità occidentale pianifichiamo troppo e ci perdiamo e qualche cosa va storto, può capitare, come è capitato a noi, di arrivare a perdere prima la traccia, perché le dune hanno il brutto vizio di spostarsi con il vento, e quindi perdere la traccia, perdere il passaggio, fare qualche chilometro in più del dovuto e finire anche la benzina, che è poco divertente in mezzo. Beh, immagino. E a quel punto cosa fai? A quel punto cerchi di tenere i nervi saldi. E che cosa fai? E praticamente cerchi di ricordare tutte le forme di vita che hai potuto incrociare sul tuo passaggio, o immaginare poco più avanti che cosa ci può essere, vedere in lontananza magari un oasi, una palma o chissà che cosa. E a noi è capitato, per fortuna, di nel tuo caso com'è andata? Cos'è che hai visto? Delle capanne in lontananza, ci siamo fermati e dopo una giornata praticamente trascorsa con gli autoctoni che si sono dimostrati disponibilissimi, abbiamo trovato una macchina che... Sei arrivato alle capanne? A piedi? Ma praticamente a piedi, sì, non eravamo poi così lontani, anche perché il panico inizia a farsi forte, perché un conto è finire la benzina, un conto è finire l'acqua, uno può avere una scorta d'acqua, però... in moto... ci si può portare, ecco, pochissima roba. Esatto. Beh, direi che però se sei qui a raccontarcelo è finita tutto bene. Il messaggio, infatti, dicevo, un'esperienza da raccontare ai nipotini. Ai nipotini. Lo rifaresti un viaggio come quello? Assolutamente sì. Dopo un mese ancora no, ma passato il mese e mezzo uno non vede l'ora di rifarlo. Davide, grazie mille. Grazie a te. Ciao, buona giornata. Ciao, buona trasmissione. Ciao. Luisa mi scrive: a me è successo quando ho perso il mio bimbo di sei anni tra la folla. Ustia, Luisa, spero tu l'abbia ritrovato anche il tuo bimbo. Di solito tra la folla c'è qualcuno che dice: c'è un bambino di 4 anni che cerca la mamma. Andiamo da Tony in provincia di Lecco. Pronto, Tony? Pronto, buonasera. Buonasera, Tony. Allora, sei bello carico, Tony? Tutto bene? Sì, finché si lavora, c'è la salute, va bene tutto. Ma lavori anche oggi? Certo. Che lavoro fai? Autotrasportatore frutta e verdura. Ma scusa, alle 4:30 non hai ancora finito? Non parti prestissimo la mattina? Sì, ma non è detto. Sì, alle 4 partiamo. E fino a che ora tiri? Ma adesso sto tornando al magazzino. Ah, ok. Senti, dimmi... No, beh, non è un lavoro che devi stare sempre a guidare, no. No, vabbè, però so che cominciate praticamente di notte, quindi alle 4:30 mi sembrava quasi tardi. Dimmi quanto ti sei perso. Mi sono perso anche quando mi hanno dato il licenziamento in mano da oggi a domani. Che lavoro facevi? Metalmeccanico. Uh-huh. Lavoravo in un magazzino, bell'ambiente, tranne, a mio avviso, il responsabile che faceva del tramite tra noi e l'azienda. Sì. Mi ha detto: guarda che ti vogliono i responsabili, i proprietari dell'azienda. Ho detto: va bene, vado. Va bene, non c'era problema, insomma, c'era tutto da discutere. Vado là, mi dice il responsabile del personale, mi dice: guardi Tony, noi abbiamo pensato di interrompere il rapporto lavorativo per queste ragioni, cioè ragioni a mio avviso ovviamente non giustificabili. Però immagino. Senti, ma quindi ti sei realmente perso tornando a casa oppure? Non mi sono perso, perché le strade le so a memoria, anche però... nel sonno, però mi sono perso quando ho tornato a casa. Cioè, sono tornato alle 8 del mattino, alle 8:30, e i miei non mi aspettavano. E siccome che dalla mia casa c'è una visuale splendida, perché abito in una collina e sotto vedo tutto, sì, vedo tutto, mi sono messo a guardare dalla finestra, quando mio figlio mi ha domandato: ma papà, non vai a lavorare? Ma che bello, dai. Lì proprio non ci ho più visto, non mi sono perso del tutto. Immagino, Tony. Vedevo buio dappertutto, ma poi non mi sono... Tony, metti giù il telefono, sennò la polizia adesso ti bracca e ti perdi. L'autoambulanza. Ok. Grazie mille, Tony, buona serata. Buona serata a voi. Ciao, alla prossima. Roberto è venuto in aereo al nord. Pronto, Roberto? Sì, buonasera. Buonasera, ciao. E ti sei perso con la nebbia? Sì, no, beh, non è che sono venuto in aereo al nord. Io ho preso il brevetto di pilotaggio da pilota privato a Roma, sì. Poi per lavoro mi sono trasferito a Padova. E fondamentalmente uno dei primi voli che ho fatto per sport, per divertimento, sono incappato nel nebbione pomeridiano e quindi sono salito di quota. Tornando indietro, non so se avete mai visto in aereo una coltre bianca, avevo dei riferimenti ma non riuscivo a trovare l'aeroporto. Ma tu, Roberto, sei un pilota, lo fai di mestiere adesso o è sempre per diletto? No, adesso lo faccio solo per sport, no? Come ne sei uscito? Sei riuscito ad atterrare con cosa? Ho fatto una di quelle cose che un pilota non vorrebbe mai fare. Ho chiamato per radio chiedendo aiuto e è decollato un amico pilota, insomma, poi siamo diventati amici, mi ha trovato e mi ha portato giù. Io ero completamente perso e dopo quasi un'ora che cercavo... Ti hanno portato a casa, Roberto. Mi hanno portato a casa. Grazie mille, ciao, buona serata. Ciao. Invece prima è arrivato questo messaggio. Concerto in una sala prove, concerto, una sala prove alle spalle, inizio il pezzo, seguo tranquillamente le prime battute, quindi è un musicista evidentemente. Arrivano i cambi di tempo, tanti ritmi che mi colgono di sorpresa, il direttore mi guarda, mi dà gli attacchi, ma io non so che note prendere, mi sono persa nel mezzo della sinfonia. Pronto, Marta? Ciao Matteo, tutto bene? Ciao, bene, tu come stai? Benissimo, ti ringrazio. Senti, dimmi come hai fatto a ritrovarti, soprattutto visto che ti sei persa. Non è facile ritrovare, sicuramente devi guardare il direttore che ti dà l'attacco e devi sperare di ripigliarlo nel punto giusto. L'alternativa oppure guardare i vicini che stanno contando il tuo posto e che ti suggeriscono la battuta in cui si è. Non è una bella sensazione quando ci si perde all'interno di un pezzo, diciamo. Senti, quanto ci hai messo a capire che ti eri persa, a riprenderti e a rientrare? No, allora capisci subito che ci sei perso perché il direttore ti dà l'attacco e tu non sai che note devi fare, e quindi se fai la nota sbagliata sei stonato rispetto a tutti gli altri. E poi se tu sei bravo... Ma si parla di secondi proprio, pochissimi. Sì, ma è un attimo per forza perché il resto dell'orchestra fa una cosa e tu ne fai un'altra, quindi è un delirio assoluto, sì. Marta, ti ringrazio molto, prendo un'ultima telefonata, stai bene, buona serata. Ciao, a presto. Ciao, alla prossima. Gerardo è l'ex legionario che ci ha chiamato l'altro giorno, che mi ha scritto: mi sono perso nel deserto di Gibuti. Pronto? Ciao Matteo. Ciao, come stai Gerardo? Bene. Senti, purtroppo ho veramente poco tempo, però raccontami com'è andata. È andata che comunque ci hanno messo per esercitazione in mezzo al deserto, dovevamo ritornare in caserma. Eravamo in cinque e nessuno di noi deficienti avevamo portato la bussola. Siamo ritornati dopo tre giorni, anzi ci sono venuti a prendere, sì. Punizioni corporali, schiaffi, un po' di calci, così. Non ho capito, punizioni corporali, vi hanno picchiato? Sì. però sempre in, non in modo esagerato, perché comunque per la legione un legionario è importantissimo. Certo, diciamo, è stato un pestaggio civile. Sì, perfetto. Sì, un po' di prigione, pane e acqua per una settimana, e da allora la bussola diventa la mia migliore amica. Gerardo, grazie mille, ciao e stai bene. Ciao, grazie. Grazie a lui, grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini e grazie anche a Luca Rinaldi. C'è in una piccola stanza in un ospedale romano una piccola donna che ha un anno, che un po' si è persa e sta combattendo. Io mi sono sentito smarrito quando il suo papà mi ha detto che lei un pochettino si era persa. Ma adesso so che piano piano sta ritrovando la strada e io la cerco con lei. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?